Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, oggi farei parlare subito i numeri di Franco Piantanida del lunedì, anche se oggi è giovedì, ma è come se lo fosse, e quindi anche per i vostri interventi all'800240024. Dunque, settima vittoria consecutiva per la Juventus, e non succedeva dal 2005-2006. Sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto partite della capolista, con 19 gol fatti e uno solo subito. Curiosità, dal 2007-2008 Pirlo ha sbagliato 3 rigori su 5 calciati, e tra questi gli ultimi due consecutivi con la maglia della Juventus. Non è stato il solo ieri nel tardo pomeriggio e tarda serata a sbagliare rigori decisivi. Boateng è giocatore della Serie A che ha segnato di più partendo dalla panchina, 4 gol. Il Genoa ha situazione tecnica drammatica, perché nelle ultime 13 partite ha fatto 6 pareggi e 7 sconfitte. La Lazio in netta crisi, perché nelle ultime 6 trasferte ha perso 6 partite, tutte. Quindi l'Udinese non vince, sì, no, ha vinto una partita nelle ultime 9, ma con 4 pareggi e 4 sconfitte, quindi mi pare che l'addio al terzo posto sia non ancora nei numeri, ma insomma un pochino nella sostanza. Snyder, questa è curiosa, è il primo non argentino a segnare nella gestione stramaccioni all'Inter. La Fiorentina invece non è ancora salva, ma certamente il colpo di ieri in casa della Roma, dopo quello in casa del Milan ancora più ridondante, e i due pareggi in casa, insomma, si è rimessa in asse e non vinceva all'Olimpico da un 3-1 di 20 anni fa, con doppietta di Battistuta, gol di Dunga e di Völler per la Roma. La Roma che ha ancora una sconfitta in casa, che a sto punto può tranquillamente arrivare, e eguaglierà il record negativo di sconfitte casalinghe del 2004-5, quando ci fu la stagione dei 4 allenatori che qualcuno, qualche romanista forse ricorderà: Prandelli, Völler, Del Neri e Bruno Conti, e si salvarono veramente per poco. Poi ci sono altre curiosità che riguardano invece la semifinale di Coppa Campioni, di cui parleremo un pochino più avanti. Nel frattempo il giudice sportivo ha già deliberato, perché ovviamente tornando in campo sabato e domenica bisognava accelerare i tempi, 2 giornate a Osvaldo per aver rivolto all'arbitro un'espressione ingiuriosa. Faccio notare che non è la prima espulsione di Osvaldo quest'anno, e in compenso è la decima della Roma, che ha questo simpatico primato stagionale, e poi squalifiche di una giornata, assolutamente per una giornata un sacco di giocatori, ma normali, cioè da somma di ammonizioni oppure da espulsioni maturate ieri. Ascolterei subito. Dunque, è bello anche questo intervento di Capello, ma prima starei un pochino sulla giornata di ieri, sia pure rapidamente, e sentirei prima Allegri alla fine di Milan-Genoa. Ma c'è solo un episodio che ha condizionato il campionato. Io non parlo dei fuorigiochi di domenica, dei fuorigiochi di Catania, dei fuorigiochi dei rigori dati e non dati a Roma con la Lazio, dei 4 episodi di Firenze. Parlo di questi episodi. Parlo solo che il gol di Muntari al momento è decisivo per il campionato. Poi se la Lazio arriverà 6 punti avanti non sarà decisivo. E a qualcuno magari non piace che gli dica così, ma la verità è un dato di fatto. Poi forse la partita dal 2-0 finiva 3-2 per la Juventus, però insomma. Sì, non è di gran gusto, secondo me, questa dichiarazione, tanto più alla fine una partita in cui il Milan è stato graziato di un clamoroso rigore per un clamoroso fallo di mano di Nesta in area. Quindi direi che stavolta Allegri poteva decisamente far meglio. Gli ha risposto, mi pare, di aver capito dal sommario che ho, gli ha risposto Antonio Conte. Non abbiamo mai perso la testa, abbiamo solo le nostre occasioni per fare gol, alla fine siamo stati premiati. Io sono molto contento, al di là del fatto che sia stato un gol di 3 punti, perché Marco era un ragazzo che comunque meritava questa gioia e questa soddisfazione. È arrivato in una condizione fisica sicuramente molto precaria, adesso lui sta bene, in una buona condizione. È inevitabile quando poi il calciatore, l'attaccante, non trova il gol, va un po' in sfiducia. Gliel'ho detto io sinceramente, ho visto che quando sbagliamo i gol vinciamo la partita, quindi dovessero essercene qualcun altro, chi va sul dischetto ha l'obbligo e il dovere morale proprio di sbagliarlo. Non mi interessa che dice Allegri, quindi a me interessa parlare della Juventus, non mi interessa assolutamente, anche perché, come ho detto prima, mi annoio quando sento alcune cose. passerei sulla sponda romanista, perché quello di ieri di Luis Enrique non è il primo sfogo di questo difficile finale di stagione, ma certamente è il più significativo. Luis Enrique: tranquilli, se quello è lo che volete andrò via, non c'è il problema, io so che cosa succede agli allenatori, ma aspetta, il mio pensiero è ancora le 4 ultime partite che mi mancano per cercare di ottenere la classificazione alla UEFA. Mi dispiace se non vi piaccio, tranquillo, e tranquilli tutti che questo non è eterno, non vi preoccupate, per fortuna per voi. E se la società decide che devo essere io, sarò io, e punto. E se non vi piace, me ne frega niente. È così come la vedo. Non è il momento di scappare e di fuggire, sarebbe troppo facile. L'allenatore della Roma domani si alza alle 9 per andare a allenare ai ragazzi e per cercare di fare la partita contro il Napoli. E se vi piace bene, se non vi piace tambè. E quando finisce la stagione mi fate questi pensieri che avete di ottimismo e di ottimismo a raudales, e così sarò e prenderò la mia responsabilità. Così lo farò. Ok? Vale, domanda, va. I rumori di fondo erano cazzotti sul tavolo di Luis Enrique, che secondo me merita 9 in comunicazione, in spontaneità, in genuinità, in correttezza e in serietà del personaggio. Come allenatore il voto cambia completamente, scende notevolissimevolmente, ma va condiviso con una società che nemmeno a gennaio è riuscita a intervenire sul mercato per cercare di tamponare o di arricchire, insomma, una difesa impresentabile a quei livelli. Fabio Capello: potrebbe fare altri 2 anni con una squadra, ritornare in campo giornalmente dopo che ho fatto 4 anni mensilmente l'allenatore. Mi ha sorpreso tutte queste chiacchiere su di me, credo che Milan sia ben diretto sia dalla scrivania che dal campo. Devo dire che se c'è una cosa che mi manca l'area italiana, non mi mancano gli ultra, mi manca certe cose del calcio italiano che sono sotto l'aspetto tecnico-tattico superiore alle altre nazioni, però devo dire che quello che ho visto in Inghilterra è stato molto positivo e molto bello. Lasciamo per un momento la lotta. Siamo arrivati al primo intervallo di giornata, poi faremo una parentesi breve, ma immagino che poi ritornerà nei vostri interventi, una parentesi di breve sulla semifinale del Bernabeu. Beh, mi pare che abbia suscitato grandi favori e reazioni la conversazione lo sfogo di ieri di Luis Enrique. Giorgio scrive: cosa ha detto Luigi Enrico? Mi alzo alle 9 domani, allora ho capito tutto, pora Roma. No? Si alza alle 9 per lavorare, incalza Gaetano Da Luca. Ha ragione Bagnoli, lavorare è un'altra cosa. Mi alzo alle 6:30 da una vita, ma Luis Enrique mi sta troppo simpatico, scrive Diego. Questo è quello che mi piace di più, sinceramente. Un po' bresciano, un po' spagnolo. Anch'io però vorrei alzarmi alle 9, scrive Davide da Verona. Sono romanista, l'unica cosa pulita quest'anno è l'allenatore in quel covo di faccendieri e di vipere. Beato lui che si alza alle 9, Roberto, eccetera, eccetera. Potrei andare avanti per un po', e sono certo che altri ne arriveranno. Invece do il bentornato a Fabio Tavelli. Buondì, Fabio. Buongiorno Gigi, mi unisco anch'io al coro di invidiosi, perché vorrei alzarmi anch'io alle 9, sì, sarebbe molto bello. Ma lo credo. Sì. Senti, ho conservato una mail della scorsa settimana, arrivata giovedì esattamente a quest'ora, alle 13:42, è firmata Andrea Cittadini, la finale sarà Bayern-Chelsea e vincerà il Bayern alla faccia delle spagnole considerate imbattibili, basta non farli uscire nella loro metà campo e affrontarle senza paura. Beh, devo dire che se le ha anche giocate a quest'ora, non dico che si sia arricchito, ma insomma qua uno sfizio se l'è tolto. Sì, anche se poi lui è andato oltre, perché ha anche detto che vince il Bayern, e per carità, visto che i favori del pronostico sono sempre saltati per aria, è vero. Aspetterei, cioè metterei in frigo del buon vino, ma con il tappo sopra. Cioè. Gigi, abbiamo sbagliato tutti, nel senso che Barça Real era la finale più logica e Bayern Chelsea era la finale più illogica, quella da tirare a indovinare. Non so se l'amico che ti ha scritto abbia doti divinatorie, se le ha si faccia sentire magari privatamente. Certo. Detto questo,

e punto, cioè se tu hai mezz'ora di tempo in più per giocare davanti ai tuoi tifosi e non riesci a segnare, devono passare gli altri. Beh, alla fine questo atto di giustizia, questo poi è successo. Così come dovremmo anche rivalutare o ripensare la questione del fattore campo, cioè giocare la prima in casa non è più così svantaggioso come una partita. No, tutt'altro. Se sei così bravo da fare un buon risultato all'andata, ottimo come quello del Chelsea, o comunque discreto come quello del Bayern, poi diventa decisivo. Fabio, potremmo andare avanti ore, però c'è un sacco di gente che vuole intervenire, allora grazie. Ascoltiamo loro volentieri, Gigi, la prossima settimana. Martedì 1 maggio, perché sai che per noi non ci sono festività infrasettimanali. Grazie. Qualche numero su questa finale di Coppa. Intanto il Bayern sarà la quarta squadra della storia a disputare in casa la finale di Coppa Campioni, ma sarà la prima di Champions League, però, perché la Champions League esiste da meno anni. Coppa Campioni esiste dal 1956. Finora è successo al Real, che vinse al Bernabeu nel 1957 la finale con la Fiorentina 2-0, nel 1965 all'Inter, che vinse a San Siro 1-0 col Benfica, e nell'84 alla Roma, che perse all'Olimpico ai rigori, tra l'altro, la finale col Liverpool. Se invece parliamo di rigori, pensate che Ronaldo ne aveva segnati 13 su 13 in stagione fino ad ora. Prima, il 13 non è detto che porti proprio buono, fino a quello parato da Neuer ieri sera, con una parata peraltro fantastica, perché è stata quella che ha orientato la cosiddetta lotteria dei rigori, ma è stata in ogni caso una strepitosa prodezza. E poi qualche altra curiosità la tengo per dopo. Dario ha chiamato dalla provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno a lei, Garanzini, mi perdoni se disturbo. Sentivo prima che parlavate appunto del discorso delle squadre, raggruppare gli impegni e quant'altro. Io l'ho trovato invece giusto così, nel senso che non dovrebbero mai sapere se, che ne so, il Barcellona e il Real Madrid si sono incontrati sabato e poi avevano la semifinale. E così, grazie a Dio, anche chi magari è inferiore ha la fortuna di arrivare magari un po' più in là. In questo caso arrivano alla finale Bayern e Chelsea. Mi andavano bene tutte e quattro, fuori il Milan, ormai alla fine chi vince vince. Però mi è piaciuto questo fatto che se la sono giocate anche quelle che sulla carta erano più deboli. Però Dario, una questione di qualità, lei pensi a come è stato stupendo il primo tempo di ieri sera e pensi come è diventato invece progressivamente più deludente la partita, no? Di ieri. Questo dipende anche e soprattutto, secondo me, dall'usura atletica. Siamo quasi a fine stagione, c'è troppo poco recupero tra una partita e l'altra. Lei dice si avvantaggia chi è più debole. Sì, probabilmente sì, però alla fine è un peccato, no? Perché se Real ha una settimana di riposo in più, se la gioca meglio, poi magari la vince lo stesso il Bayern. Il Bayern ha meritato abbastanza nettamente sulla doppia partita, ed era già stato più bravo e più forte, e meritava forse un vantaggio più ampio all'andata, quando questa differenza atletica non c'era. Però è vero che ieri sera ha un po' penalizzato il Real, come era stato penalizzato a maggior ragione il Barcellona la sera prima, che aveva addirittura avuto 24 ore in meno di riposo. Per Mourinho non è la prima volta che sono fatali i calci di rigore in semifinale. Nel 2007 il suo Chelsea fu eliminato dal Liverpool ai calci di rigore, e chi sbagliò il rigore decisivo? Robben, che ieri sera è stato uno dei giustizieri del Real. Oddio, giustizieri, con quel gol che si è magnato dopo pochi minuti, lasciamo stare i giustizieri. Però è anche vero che... E mentre invece una finale tedesco-inglese non c'era, non usciva dal 99, quando ci fu quello storico Manchester United-Bayern Monaco, con gli inglesi che a tempo praticamente scaduto nel recupero riuscirono non solo a pareggiare ma poi addirittura a vincere. Ultima curiosità, molto carina trovo, è che Joop Heynckes, e cioè l'allenatore del Bayern ieri sera, vinse per il Real la settima Coppa dei Campioni, quella in finale contro la Juventus nel 98, e ieri ha tolto allo stesso Real ha tolto la possibile decima, che è quella che il Real Madrid brama da non so quanti anni. Velocemente, Stefano Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, Garanzini. Dica. Considerazione un po' controcorrente. Dal mio punto di vista, il Chelsea, che indubbiamente è inferiore in questo momento al Barcellona, ha fatto la partita, o le due partite che voleva fare, nel bene e nel male, prescindendo che sia giusto o sbagliato, ma Di Matteo è riuscito a far giocare la propria squadra, forse perché anche distruggere è più semplice, nel modo come voleva. Il Barcellona non ci è riuscito. Sì, sì, no, questo no, no, non dico di no. Io per valutare quale squadra in queste grandi partite, perché si potrebbe applicare sempre, ma in queste grandi partite a me piacerebbe che una televisione un giorno facesse questo, come metodo, no? Come metodo di valutazione. E cioè prendere tutte le immagini, però a velocità normale, non con i ralenti, a velocità normale, prendere tutte le occasioni di gol che ha avuto una squadra e tutte le occasioni che ha avuto l'altra, fermare l'immagine al momento del tiro, al momento in cui si tratta di finalizzare, di far gol o non far gol, eccetera, e sommarle alla fine. Allora, se si applicasse questo, lei vedrebbe che Bayern Real ha avuto un esito sacrosanto, Chelsea Barcellona no, poi con tutto il rispetto per lo spirito di sacrificio che il Chelsea ha avuto, ma anche con tutto il rispetto per la buona sorte, diciamo, che l'ha aiutato. Torniamo in onda e ascolterei per completare il quadro, che poi magari invece non sarà affatto completato perché ci saranno i vostri interventi, completare il quadro della semifinale di ieri sera, ascolterei Karl-Heinz Rummenig. È stata una partita molto intensa, molto emozionante, poi alla fine chiaramente abbiamo avuto anche un po' di fortuna di vincere ai rigori, ma ci voleva. Abbiamo fatto una gran bella partita sia a Monaco sia qua a Madrid, quindi forse la grande volontà ci ha aiutato alla fine di disputare la finale in casa. È incredibile, incredibile, perché incredibile. Non ci siamo creduti molto, ma poi dopo 15 minuti eravamo 2-0 sotto, quindi partita difficilmente da rovescio, ma comunque la squadra ha disputato una gran bella partita e poi adesso siamo felicissimi. Effettivamente dopo un quarto d'ora, a maggior ragione con quell'occasione fallita da Robben di cui si parlava prima, sembrava proprio l'inizio di una goleada o comunque di una partita assolutamente in pieno controllo, e c'è voluto tutto il temperamento, il carattere da tedeschi per riuscire a rimetterla in asse prima e poi alla fine insomma a ribaltarla, anche perché poi noi siamo sempre qua a spaccare il cappello in quattro, il rigore iniziale sul dato a Real Madrid è di quelli abbondanti. Alberto, Reggio Emilia, buongiorno. Ah sì, buongiorno Gigi. Dica. Innanzitutto vorrei ringraziarla perché durante questi anni in cui ascolto il suo programma, lei mi ha fatto capire alcune cose di tanto che prima da tifoso non avevo capito, quindi la ringrazio, la sportività, la correttezza, non le vivevo così come da quando ascolto il suo programma, quindi grazie. Grazie a lei. Seconda cosa, le chiedevo, io sono un tifoso della Juventus, il tifo è il nome di una malattia, ma io ho come l'impressione che questa squadra avrebbe potuto fare molto bene anche in Europa, volevo sapere la sua opinione. Ringrazio, la saluto. È difficile dirlo, Alberto, così a spanne sì, è possibile che ci sarebbe anche riuscita, però poi come la conciliamo quella forza atletica, tutta quella corsa, quella superiorità dinamica con gli impegni anche del mercoledì, ma gli impegni non solo dal punto di vista fisico, anche di quello mentale. Credo che per quest'anno Juventus debba accontentarsi di arrivare di vincere il campionato e magari anche la Coppa Italia, perché poi è una finale al 50% secondo me quella con il Napoli. Per una dimensione europea perlomeno ad alto livello o a medio alto livello, io suggerirei di ripassare, nel senso che bisogna ripassare per il mercato e vedere come si riesce a fare un salto di qualità, di organico, di temperamento, di personalità, di un sacco di cose. Mourinho, come ha vissuto questa sconfitta? Sentiamo. Se perdiamo 2-3-0 a avversario molto meglio di noi, una frustrazione diversa. Arrivare ai rigori, fortuna per loro, il calcio è così, la vita è così, domani un altro giorno, domenica un'altra partita e cerchiamo di vincere il campionato, che in questo momento è il più importante. Tutto il mondo parla del Barça, è un miracolo del lavoro, una squadra vincere il campionato contro il Barcellona o vincere un'eliminatoria contro il Barcellona. Il Chelsea lo ha fatto bene e noi cerchiamo di farlo nel campionato. Daniele Pavia, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Niente, io volevo fare una considerazione su Stramaccioni. nel senso che volevo spingere un po' gli entusiasmi, perché io penso che questo allenatore comunque è arrivato in Serie A senza aver fatto la vera gavetta, e i vari Mazzone, Galeone hanno fatto una vita senza avere l'opportunità di allenare una grande squadra. E infatti ieri Guidolin, intervistato da Sky, ha detto: non bisogna vedere sempre delle mosse tattiche quando non ci sono, perché gli è stato chiesto il fatto che Stramaccioni ha messo due o tre quartisti e hanno messo in difficoltà l'Udinese. Guidolin ha detto: abbiamo perso la partita perché non abbiamo difeso noi, non siamo stati attenti, guardiamo delle mosse tecniche quando non ce ne sono. Ma ieri la mossa decisiva è stata quella papera di Handanovic sul primo gol di Sneijder. Insomma, direi che è molto evidente, no? L'Inter era andata sotto ed è riuscita a pareggiare subito, e quindi la componente psicologica della partita per l'una e per l'altra squadra è immediatamente cambiata e ha prodotto poi questo cambiamento, che si è tradotto sul campo in una prova brillante dell'Inter, non c'è dubbio, e certamente una prova significativa in ripresa. Poi i due trequartisti o meno, insomma, verso fine stagione, ed è vero comunque la gavetta, guardi, non ci sono regole in questo, cioè Montella l'anno scorso sembrava una soluzione così un po' avventurosa, no? che la Roma aveva preso per finire una stagione, per completare nel migliore dei modi. Non è stato confermato, è andato in provincia e ha fatto oggettivamente una grande stagione da giovane allenatore. Chissà, magari andrà alla stessa maniera per Stramaccioni. Moreno, Prato, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Buongiorno a lei. Io mi scuso, la sto ascoltando da pochissimo oggi purtroppo, non so se è una cosa che avete già, di cui avete già parlato. Io le volevo porre il discorso per quanto riguarda le squalifiche per la finale. Io spero, siccome io da Juventino ci siamo passati direttamente, se ricorda, al 2006 il discorso di Medved, certo. Per arrivare a un discorso, diciamo, perché 4 mancanze da parte di Chelsea, 2 o 3 da parte del Bayern, da arrivare a un certo punto, magari ripartendo, non so, dalle semifinali, cercare di azzerare, perché io penso vada a discapito anche del discorso che uno, una volta ricevuto una munizione, possa fare una semifinale con diffida, quindi giocando un po' contratto, insomma, con tutto quanto che vada a discapito. Meglio, non sono d'accordo con lei, Moreno, meglio se gioca contratto e mena di meno, molto meglio, ne guadagna il calcio. Io sono contro le depenalizzazioni, contro gli sconti, no? in un caso come questo, che cosa fa? A un certo punto si azzera le semifinali, cioè per la finale liberi tutti, e quindi cosa fai? Autorizzi prima, nei turni precedenti, uno a menare di più o a essere più scorretto? Io credo che questi regolamenti vadano bene così. Invece vi leggerei volentieri, capita abbastanza spesso, una riflessione molto interessante, molto colta, che Paolo Casarin fa oggi nella sua rubrica sul Corriere della Sera. Parla di arbitraggi italiani prima, ieri dell'errore grave di Gervasoni a San Siro che ha su quel rigore di Nesta, e poi dice: se poi confronti gli arbitraggi italiani con quelli visti in Barça-Chelsea dal turco Kakir, 35 anni, e Kassai, 36 anni, in Real Bayern, si scopre che il metro esibito in UEFA è molto più severo del nostro, con rigori concessi senza esitazione, espulsione di grandi campioni, ammonizioni automatiche per falli tattici, assenza di ogni mediazione. È solo la presenza attiva dell'arbitro di fondo campo che fa aumentare la severità arbitrale? È una bella domanda, secondo me, con risposta incorporata. Lesione agli adduttori per Amauri, stagione finita. Marco da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Una considerazione: mi è sembrato finalmente di vedere una squadra di calcio di altri tempi, o meglio, guardando sempre il Barcellona che giocano un calcio stellare, così tutti i passaggi brevi. Beh, il Bayern di Monaco, contrariamente, mi è sembrato appunto giocasse un calcio classico, che tra l'altro è un piacere vederlo. Come non so cosa ne pensa. Nel modo più assoluto, il Bayern ha giocato un signor calcio sia all'andata che al ritorno. Il calcio del Barcellona è un calcio atipico, completamente, tant'è vero che così non si ricordano squadre che abbiano giocato così prima di loro, poi più o meno forti altrettanto, di più, questo è un altro discorso, però è certamente un tipo di gioco che il Barça coltiva sin dai tempi di Cruyff, quindi parliamo di una trentina d'anni, ma che fino a questi punti estremi di possesso palla e di perfezione del meccanismo nei momenti migliori non era certamente mai arrivato. Il Bayern fa un calcio più tradizionale, ma fa un calcio brillante, cioè se non fai un calcio brillante di personalità, non vai a Madrid contro la favorita di non solo della semifinale, ma secondo me dell'intera Coppa Campioni fin da settembre, basta vedere gli score delle squadre arrivate fino a lì per dire chi era la favorita, basta leggere le quote dei bookmaker che non regalano mai nulla, non vai lì a fare una partita di quella personalità, a essere sotto 2-0, a riprendere il pallino in mano, a cominciare a giocare come niente fosse, accorciare le distanze e poi da lì progressivamente occupare il campo e giocarti la partita per l'appunto da protagonista. Bisogna avere quelli che gli spagnoli chiamano huevos da una parte, ma soprattutto bisogna avere bisogna avere le basi tecniche, tattiche e eccetera, insomma tutto quello che serve. Qualche buon messaggio. Buongiorno Gigi, avete ragione, il Bayern ha strameritato l'andare in finale. Ho 37 anni e faccio fatica a ricordare un Real più modesto di questo. Lorenzo da Mestre, dal punto di vista di gioco sono d'accordo. Carlo da Perugia scrive invece: poveri soloni del calcio, prima sciorinate pronostici per ostentare la vostra molto presunta competenza e poi ve la cantate e la suonate accampando giustificazioni fantasiose per aver sballato il vaticinio. Siete patetici, scrive per l'appunto Carlo da Perugia, grazie, fa sempre piacere comunque riscuotere consensi. Ieri sera invece, scrive Mauro, mia moglie ha visto Rummenigge, mio idolo da bambino, e mi ha chiesto chi era quel vecchietto. Chiedo il divorzio, ma io direi con procedura d'urgenza, caro Mauro, non lasci passare la giornata. Nicola Filippone e il suo 26 aprile. Sembra ieri. 26 aprile 1998, 31esima giornata di campionato. Al Delle Alpi si gioca il match che vale una stagione. La Juve di Lippi, capolista, ospita l'Inter di Simoni, che insegue a una lunghezza. I bianconeri passano dopo 20 minuti con Del Piero. L'Inter reagisce, ma trova sulla sua strada un Peruzzi ispirato. Al 24esimo della ripresa si consuma l'episodio decisivo. Ronaldo avanza in area bianconera, ma trova sulla sua strada Giuliano, che impedisce al brasiliano di proseguire l'azione. L'arbitro Ceccarini lascia correre e sul capovolgimento di fronte West ferma Del Piero. Stavolta Ceccarini fischia il rigore, che lo stesso Del Piero si fa parare da Pagliuca. Gli animi si infiammano. Simoni viene espulso. Qualche minuto dopo la stessa sorte tocca al suo vice Pini e a Zerias per una gomitata de Deschamps. La vittoria sui nerazzurri consegna tra le polemiche il titolo alla Juventus e il contatto Ronaldo-Giuliano sarà oggetto di moviole e discussioni concitate anche a distanza di anni. Che non sono finite, continueranno ancora in secula seculorum. Amen. Bruno da Milano, buongiorno. Buongiorno, io chiamavo perché sto notando, ormai ho 55 anni, quindi di calcio ne ho visto tanto, che i cosiddetti esperti, i giornalisti, nelle previsioni danno sempre, diciamo, previsioni molto lapalissiane. Il discorso del Real Madrid-Barcellona, il Milan che vince il campionato, per poi alla fine arrivare a dire sì, Barcellona e Real Madrid hanno pagato il classico, ma prima di fare le previsioni sapevano che avevano giocato il classico. Non è che forse che questi esperti seguono solo semplicemente quello che è la banalità di una previsione scontata per poi trovare scuse per giustificare le mancate, gli errori di valutazione che vengono fatti? Ma Bruno, gli errori di valutazione più gravi secondo me li fanno i bookmaker, l'ho già detto prima, perché poi gli costano, no? Gli errori di valutazione, nel senso che torniamo a rivederci chi erano le squadre favorite, quali erano le vittorie pagate ad alto prezzo e quali erano invece le vittorie considerate banali. E mi sembra una valutazione. Io personalmente ero assolutamente certo che, ma certo ripeto, da settembre, che il Real quest'anno sarebbe andato in finale e avrebbe quasi certamente vinto la Coppa Campioni, e l'ho sbagliato. Nella fattispecie invece di Chelsea-Barcellona, credo, infatti sono inondato di messaggi che dicono come ha fatto a indovinare che il Chelsea, perché il Barcellona lo conosco meglio e mi sembrava questa una stagione in cui di quelle che alla fine arrivi sulle ginocchia per una serie di ragioni e cosa, e quindi la vittoria del Chelsea, anzi sono semmai stupito di come il Barcellona avesse strameritato di eliminare il Chelsea, e pensavo che sarebbe stata ancora più complicata invece affrontare gli inglesi. Ci si prende, no, non ci si prende, eccetera. Lei forse scambia il calcio per una scienza esatta, per fortuna non è così, ed è la ragione per cui da un po' più di un secolo, e di nuovo l'ho già detto prima, in secolo, seculorum amen, vedrà che il calcio continuerà a resistere, perché questo è il suo fascino. Rossano, Lucca, buongiorno. Sì, buongiorno signor Ganzi. Dica. No, volevo un paio di commenti. Uno su si è visto la sceneggiata di Pepe che ha fatto quando è stato appena toccato da Ribéry. Sì, l'ho visto. Uno dei giocatori più scorretti che ci sia nel campo internazionale, alla pari col suo connazionale Lucio, direi. Ecco, infatti. Ah no, momento. Pepe è portoghese e Lucio è brasiliano. Bon. Sì, mi è piaciuto. E poi niente, siccome volevo appunto un suo commento anche su Gomez, che veramente secondo me è un altro che un centravanti con i fiocchi, diciamo. Ah, sicuro, Veramente ne tiene sempre tre a bada. Assolutamente. Si parla di Ribéry, Schweinsteiger, Robben. Grande partita all'andata, grande partita al ritorno, si è talmente speso che con un po' più di freschezza sia all'andata che al ritorno un gol lo timbrava in più, sicuro, perché ricordo un errore da sottoporto, sotto misura, da tre metri all'andata, calciata alta, e ieri sera un paio di erroracci in area di rigore, uno in particolare nel secondo tempo. Però ragazzi, che impegno, che strenua cosa. Per me il migliore in campo del Bayern, insieme a quel centrocampista Luis, non mi ricordo come si chiama, Gustavo, che cosa, che ha giocato una partita straordinaria e che sarà purtroppo squalificato per la finale, e dall'altra parte un grandissimo Marcelo, a parer mio almeno, perché non ha fatto muovere Robben, e quindi è stato grande sia da difensore, da terzino, che da propulsore, perché ogni volta che veniva Marcelo saliva la temperatura, no? Anche nel Bernabeu bastava sentire l'onda, no? L'onda di rumore, che di tifo che lo accompagnava. Se pensate che all'andata Marcelo era in panchina, qualche scelta anche dei profeti, volendo, si potrebbe pure discutere. Luigi da Pesaro, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Volevo il suo parere su questa cosa. Io ovviamente apprezzo molto il Barcellona perché è una squadra fantastica, però l'altra sera mi sono annoiato perché ho visto un Barcellona che per 90 minuti ha fatto il terrello davanti all'area del Chelsea e non ha mai cercato di cambiare tema tattico, mai nessuno che è andato sul fondo. È un suo limite, Luigi, questo è un limite del Barcellona, non c'è nessun dubbio, però è anche vero che giocando così ha tirato in porta, non mi ricordo più, tra andate e ritorno 43 o 44 volte, ha preso 47, ha preso 4 tra pari e traverse, e diciamo che proprio benissimo non gli è girata, no? Dopodiché che sia monocorde è vero, e che nelle serate di non eccelsa vena sia un po' noioso, sono d'accordo con lei. Nicolò Rinaldi in regia, Franco Piantanida in redazione, grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.